Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera al professor Luigino Bruni. Buonasera. Luigino Bruni, professore ordinario di economia politica presso l'Università LUMS di Roma, coordinatore del progetto Economia di Comunione del Movimento dei Focolari, editorialista per molti giornali, tra cui Avvenire, ha scritto un libro che si intitola Fondati sul lavoro, l'editore Vita e Pensiero. Fondati sul lavoro, perché fondati sul lavoro, Luigino Bruni? Beh, qui questo aggettivo ha due grandi significati. Innanzitutto c'è riferimento all'articolo 1 della Costituzione italiana, che è appunto fondata sul lavoro, ma c'è anche un riferimento antropologico, che l'essere umano, uno dei suoi fondamenti, forse il principale nella fase della sua vita adulta, è il lavoro. Cioè il lavoro è fondativo della vita, dell'essere umano, quindi è molto più di un mezzo per vivere, espressione del nostro stare al mondo. Ecco, questo è un libro che è proprio un viaggio all'interno del lavoro, della persona. Si inizia con l'articolo 1 della Costituzione e si chiude con l'articolo 1 della Costituzione. Quindi è un po' uno spiegare perché questo articolo 1 abbia un senso e abbia una realtà. E il lavoro però in questo momento è un po' in difficoltà, è un po' in crisi. Il lavoro è soprattutto in questa fase il lavoro che non c'è. Sì, è in crisi perché dobbiamo reinventarci un modo di lavorare per tutti o per un numero maggiore di quello attuale, e non sappiamo come fare, perché un certo tipo di lavoro, il lavoro della fabbrica, il lavoro tradizionale, gli uffici, il lavoro pubblico, è andato profondamente in crisi con la globalizzazione e con questo appunto periodo che stiamo vivendo, ma non abbiamo ancora inventato abbastanza lavoro per dar lavoro a tutti. Quindi è un momento di crisi, di passaggio, di crinale, di sofferenza. Quindi bisogna rifondare il lavoro, rifondare un lavoro forse sì, non più come in passato, un lavoro molto parcellizzato, le 8 ore di lavoro per un certo stipendio, ma un lavoro forse un po' diverso, un po' più libero, in cui ci sia non solo il lavoro per avere una ricompensa, come è giusto, come si deve avere, sì, ma anche un lavoro che sia un'espressione, la possibilità di espressione della persona. Sì, il lavoro in realtà, la cosa bella del lavoro è che è più cose assieme. Il lavoro è senz'altro un mezzo per vivere e basta già questo per dare dignità al lavoro. Basterebbe già questo, cioè il fatto che si lavora per mantenersi, non dipendere dagli altri e mantenere figli e coniugi. Ma il lavoro è anche più di questo, è la nostra identità. Quando ci presentiamo a degli amici e a dei nuovi conoscenti, non è che diciamo il nostro hobby, ci si presenta che lavoro facciamo, e quindi diventa il primo linguaggio per parlare con gli altri. Ma come dico nel libro, il lavoro è anche molto di più di questo. Ecco, è molto di più di questo, però in una certa prospettiva bisogna un po' liberare anche il lavoro da certe gabbie in cui l'abbiamo messo, cercare di avere una capacità di cogliere anche tanti lavori diversi che tutti contribuiscono in fondo alla presenza della persona nella società, valorizzare questo e dare una dignità. Forse anche un problema quello di ridare una dignità al lavoro manuale, che era forse persa in questa società molto intellettuale. Sì, sicuramente. Il lavoro va liberato da due grandi pericoli e errori, che sono il romanticismo e il cinismo. Il romanticismo, chi parla di lavori meravigliosi di altri che non ha mai fatto, no? Mi cito Cicerone che passava la campagna romana e lodava i contadini senza aver mai preso in mano una zappa, probabilmente. Sì. Quindi il lavoro un lavoro che viene lodato e mai conosciuto nella sua drammaticità, ma anche liberarsi dall'errore del cinismo, cioè di chi vede il lavoro soltanto come un mezzo per vivere mosso dagli incentivi e gli interessi e niente più. In mezzo c'è la vita, che è un intreccio di motivazioni intrinseche, motivazioni strumentali, di salari, di riconoscimento, di riconoscenza, di stima. Tutto questo è lavoro. Ecco, c'è un passaggio che mi ha molto colpito in questo libro, dove si parla appunto dell'educazione dei giovani della società, in cui si parla di scuola e bellezza, cioè educare i giovani alla bellezza anche attraverso degli edifici scolastici, che non siano sciatti e banali, ma che siano un richiamo appunto alla bellezza. E come nel passato ci fosse una capacità anche delle persone, un po' magari per esuberanza personale, di fare delle cose belle per farle vedere, adesso invece la società in cui fare delle cose belle è passata un po' di moda. La bellezza è fondamentale. Sì, qui a Roma, dove vivo ora, a volte quando penso che nel 600 i romani, i contadini, persone magari che avevano una vita molto triste, potevano andare a San Luigi dei Francesi a vedere Caravaggio, cioè vivevano in città piene di bellezza, che diventava un bene pubblico. Oggi abbiamo i nostri ragazzi, il nostro patrimonio più grande, bambini, ragazzi e giovani, che devono ascoltare poesie di Leopardi o di Umbrano della Divina Commedia, a volte in scuole ridotte in condizioni fatiscenti. Quindi una grande operazione scolastica, anche edilizia, è fondamentale per la formazione del carattere. I muri parlano, e qui i bambini sono molto bene quando fanno le case con gli occhi e che ridono, perché sanno che anche c'è una vita nelle cose, cioè si insegna, ci sono parole nella nostra scuola che non sono solo quelle dei maestri e dei professori, parlano anche le mura, parlano gli ambienti, e tutto forma il giovane. Ecco, tutto forma il giovane in una prospettiva appunto in cui ci sia una volontà poi di essere presenti in questa società. Una parte importante del libro è dedicata proprio agli imprenditori, l'imprenditore che crea lavoro, che dà lavoro, che è qualcosa che va al di là del profitto, del semplice, sì, profitto. Certo, l'imprenditore, come io amo tanto l'articolo 1 della Costituzione, mi dispiace che non ci sia nella nostra Costituzione la parola imprenditore né impresa, perché sembrava una parola, come dire, non adatta ad un mondo fondato sul lavoro. In realtà anche l'imprenditore è un lavoratore. L'imprenditore è un lavoratore che lavora, anche perché tanti nostri imprenditori sono artigiani che lavorano insieme agli operai della fabbrica. Certo. Invece abbiamo, magari per motivazioni ideologiche di destra o di sinistra, qui sono abbastanza alleati, visto l'imprenditore come qualcuno che è fuori dal mondo del lavoro, che magari sfrutta addirittura il lavoro, o è invece un eroe, un missionario laico che salva il mondo solo con le sue idee. Perché abbiamo avuto qualche cattivo esempio di imprenditore. Sì, anche alcuni buoni, ma poco raccontati. Ecco, qui appunto nel libro si dice, ci scorgono gli imprenditori buoni, la loro identità, la loro storia, il loro posto nel mondo, la stima e la riconoscenza dei propri concittadini, qualcosa di bello da raccontare a figli e nipoti, quindi qualcosa, sì, che si costruisce. Sì, che il denaro, il profitto è troppo poco per alzarsi tutta la vita al mattino e andare a lavorare, la gente vuole di più, vuole tutto, e quindi l'imprenditore non gli basta il profitto, vuole la stima, la riconoscenza, lasciare qualcosa di sé che abbia avuto un senso, un significato nella loro esistenza. Ecco, c'è un capitolo dedicato alla festa con i panni del lavoro, perché sì, cosa c'entra la festa con il lavoro? Il lavoro finisce e diventa, poi c'è il giorno di festa, la domenica è un giorno in cui non si lavora. E in realtà la mia visione del lavoro da festa è un po' diversa. Innanzitutto la parola stessa festa viene da fesia, che vuol dire anche giorno feriale, feria, quindi c'è un legame molto profondo fra lavoro e festa. Questo era molto chiaro nel mondo contadino, cioè senza lavoro non c'è festa, e senza festa non c'è lavoro, ma appunto abbiamo gli schiavi, poi non c'è mai festa, tanto che nell'Antico Testamento il giorno di sabato era festa per tutti, per questo momento di uguaglianza. Ma chi non lavora non fa mai festa, perché il disoccupato la domenica è il giorno peggiore, certo, anzi è peggiore, perché è il ritmo degli altri giorni feriali che dà senso alla festa. E oggi le nostre imprese soffrono per carestie di festa, c'è molto divertimento e poca festa come gratuità, come beni relazionali, come incontro. Ecco, i beni relazionali sono un po' qualcosa che percorre un po', sì, tutto il libro, come qualcosa che viene costruito anche attraverso il lavoro, che dà senso proprio al lavoro. Cos'è un bene relazionale? Il bene relazionale è quel tipo di bene dove è la relazione con l'altro essere il bene. Quando noi usciamo con degli amici in serata, certo consumiamo magari una pizza, una birra, ma in realtà c'è un bene che non è né pizza né birra, che è il rapporto che stiamo costruendo insieme, che diciamo consumiamo nel linguaggio economico. Bene, gli economisti non vedono questi beni, perché tendiamo più a vedere gli oggetti, i servizi. Invece il mondo è pieno di beni relazionali. La gente fa delle cose perché li cerca. Lei pensa, ad esempio, a cosa vuol dire andare a lavoro al mattino sapendo che c'è un collega con cui si va d'accordo. È come se ci fosse un panino in più da mangiare, certo, in quel luogo. Cioè, ci si nutre di beni relazionali. E quando invece c'è un male relazionale, si chiama a volte anche mobbing, dove abbiamo stipendi ottimi, ma siccome stiamo male al lavoro, magari lo cambiamo, perché gli esseri umani vogliono molto di più che benefit, incentivi e stipendi. Cioè, quello che sono importanti, ma sono la base, bisogna andare oltre questi, sì, bisogna cercare di essere, di costruire appunto questa società in cui le relazioni abbiano la loro importanza. E il libro si conclude con una nota di ottimismo guardando in avanti, molto realismo, perché poi nelle pagine di questo libro c'è la realtà attuale con le sue difficoltà, con la sua mancanza di lavoro. Però c'è anche una prospettiva di ripartire dal sud, per esempio. Il sud è il, sì, grande problema italiano, il problema in cui la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, è molto alta. Ma ripartire dal sud è possibile? Certo, perché il sud, appunto perché in questo momento fa molta fatica a creare lavoro, c'è tanto margine per nuovo lavoro. Cioè, se noi oggi non includiamo chi è ai margini, chi è escluso dall'attuale sistema produttivo, e quindi trasformiamo un vuoto, un problema in un'opportunità, non potremo mai ripartire. Lì si parla del sud, ma si parla anche dei giovani e delle donne. Noi abbiamo in Italia delle risorse totalmente non valorizzate, che vanno incluse, quindi è un atto di grande civiltà, di motivazione intrinseca, l'inclusione del sud, di donne e di giovani, ma includendoli si cresce insieme. Ecco, c'è in questo capitolo proprio si cita Antonio Genovesi, un economista di cui appunto si ricordano in questi giorni 300 anni dalla nascita. È un economista un po' dimenticato dal pensiero economico contemporaneo. Sì, perché è una stagione di economisti, l'ultima grande epoca che abbiamo avuto in Italia, 700-800, che ha tentato di leggere il mercato come virtù. Invece con la riforma protestante tutta l'attenzione dell'economia è stata basata sull'idea degli interessi e degli incentivi, che nasceva da un pessimismo antropologico: l'essere umano è incapace di virtù ma solo di interessi. Invece questa scuola napoletana italiana ha tentato di leggere il mercato come vita civile, e quindi oggi è interessante che noi oggi o riumanizziamo il mercato e riportiamo dentro il mercato il dono, non fuori, oppure ci accontentiamo di un mondo dove per 8 ore, 10 ore al giorno ci bastano gli interessi e poi ci divertiamo dopo cena. Ma un mondo così è poco intelligente. Cioè, riportare il dono dentro il mercato mi ricorda qualcosa della Caritas in Veritate di Benedetto XVI. In fondo, sì, è questa una linea di rendere più dinamico, più costruttivo, più aperto il mercato, ma senza rinunciare al mercato. Assolutamente, è che il mercato è in sé un luogo di incontri umani. Io, ad esempio, la mia idea del lavoro, che il dono è dentro il lavoro, non è a fianco. E mentre lavoriamo siamo dono, non la mezz'ora di straordinario non pagato. Perché il dono è intrinseco all'umano essenziale, non è un di più, è il tutto. E questo è un tornare appunto all'essenzialità anche della persona, che è la persona poi al centro della società e quindi anche al centro del mercato. Certo, senza persone il mercato non funziona, le imprese chiudono, quindi rimettere al centro il lavoro, rimettere al centro la persona. Prima delle istituzioni, prima delle regole, c'è la persona che lavora, che risparmia, che vive. Direi una necessaria utopia a questo punto di fronte a una realtà che per certi versi lascia molto sconfortati. Grazie, grazie a Luigi Doburi di essere stato con noi. Abbiamo parlato del suo libro Fondati sul lavoro, edito da Vita e Pensiero. Sono 160 pagine per 15 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona serata.